24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Francesco Caio, 58 anni, napoletano, l'ingegnere elettronico, manager Zingaro e Giramondo, un'età beta digitale, inizia in Stet, poi 5 anni in McKinsey, a Londra dove si innamora, si sposa e oggi è padre di due figli. Nel 96 amministratore delegato di Olivetti, ma due mesi dopo se ne va, poi con Merloni che cerca innovazione e la borsa. Ancora a Londra risana il secondo gruppo di telecomunicazione inglese. Dopo 3 anni di perdite annuncia 302 milioni di sterline di utili. Con Letta e gratuitamente commissario dell'agenda digitale. Alla fine, prima di accettare il ruolo di amministratore delegato di Poste, scrive un libro, Lo Stato del Digitale. E il sottotitolo è un urlo di speranza. Come l'Italia può recuperare la leadership in Europa? Ecco, ingegner Caio, la privatizzazione di Poste va in questa direzione? Sicuramente sì. Perché? Perché è stato un investimento in un'azienda che rappresenta l'Italia, è stato un investimento in Italia. Senta, ma il ministro Padoan dalla privatizzazione si aspettava 6-8 miliardi, così diceva, ne avrà 3,5. Lei è contento lo stesso? No, noi siamo molto contenti perché quei numeri che ha dato lei si riferiscono al valore totale dell'azienda, non alla quota venduta. Quindi è soddisfatto del prezzo, sì, per esempio? Soddisfatto del prezzo, sì. Senta, il botto però non c'è stato. Perché abbiamo ascoltato il mercato e un prezzo di collocamento che ha confermato nel suo primo giorno di trattazione che era il prezzo giusto. È salito molto, poi è sceso, no? No, è salito poco, è sceso poco e soprattutto è rimasto... Insomma, va bene così, lei è contento. Stabile, sì. Senta, Corrado Passaro, l'uomo che ha risanato le Poste, dice che la privatizzazione però è un errore perché significa privarsi di un'infrastruttura sociale. Cosa risponde? Che noi andiamo avanti, facciamo i fatti. Passera dice anche però che questa scelta porterà a privatizzare le cose profittevoli e a scaricare il resto sullo Stato. Perché non sarà così? Perché abbiamo privatizzato il gruppo come un unicum, con dentro le parti buone e le parti che dovranno ancora risanate. E questo è quello che garantisce il risultato, secondo lei? Che garantisce la continuità di una tradizione postale che proiettiamo oggi nel futuro. Ecco, ingegner Caio, certamente la campagna pubblicitaria che avete lanciato, che identifica il cambiamento del paese con il cambiamento delle Poste, è una campagna coraggiosa, anche un pochino presuntuosa, ma è giusto. E avete voluto sdoganare il cambiamento come un valore, insomma. Abbiamo voluto ricordare che siamo qui per i clienti. Loro cambiano, noi cambiamo con loro. Ma è qui, è su questo punto che c'è la sintonia maggiore con Renzi? Ma direi è uno dei punti, ma sicuramente quello verso un paese più moderno, più aperto anche all'internazionale. Quello del cambiamento, insomma, sì. Senta, ma prima di essere nominato, lei lo conosceva Renzi? Ci eravamo incontrati, sì. Ma incontrati così? No, io ero a completamento del mio ruolo di sua agenda digitale e avevo gestito con lui il passaggio di consegne. Cosa le piace di più di lui? La propensione al cambiamento, il coraggio di averlo veramente avviato. E di meno? Un suggerimento, il digitale e l'innovazione vanno tenuti alte nell'agenda. Le sembra che non lo siano per adesso? No, che vanno... C'è un valore nella continuità del ricordo agli italiani di queste cose. Ecco, dottor Caio, ingegner Caio, la sua privatizzazione di Poste farà da apripista a tutte le altre, secondo lei? Me lo auguro, penso che ci sono le condizioni. Ma a cosa possono servire di più i miliardi raccolti? Ma intanto c'è una legge che dice che vanno utilizzati per l'abbattimento del debito. Quindi riduzione del debito, non investimenti. Ma tenga conto che è stato fatto un enorme investimento nella credibilità del paese e oggi se ne vedono i risultati. Un'Italia che si presenta al mondo promettendo privatizzazioni e facendole su un'azienda grande come Poste in tempi così veloci è un'Italia che guadagna tantissimo in credibilità. Ecco, però, dicevo, i soldi dove li mette, lei dice abbattere il debito, non investimenti. Ma gli investimenti siamo in grado di farli senza utilizzare i soldi della privatizzazione. Senta, ma nel pensare alla privatizzazione, lei ha sempre detto che le Poste sono one company, cioè niente spezzatino. Perché? Perché le Poste sono un marchio, una rete, dei portalettere a cui la famiglia, i cittadini italiani si rivolgono per un portafoglio di servizi. È la specificità nostra, la logistica, i pagamenti, il risparmio. Avere tanti servizi da offrire. Intorno alla nostra radice. Quindi Banca del Mezzogiorno, Poste Mobili in futuro... Non potrebbero andare per conto loro? Potrebbero, oggi non è nei piani. Ma per chi compra le azioni di Poste, secondo lei, scommette su di voi o scommette anche sull'Italia? Tutte e due. Sicuramente sia i cittadini che gli investitori internazionali hanno fatto esattamente questo ragionamento. Senta, ma per un cittadino che abita in un paesino sperduto della provincia, è meglio essere un vostro azionista oppure un vostro cliente? Speriamo tutte e due. Sul cliente è un caldissimo invito a esserlo, sull'azionista è un caldissimo invito a informarsi bene prima di scegliere, e perché l'azione può andare su e può andare giù. Appunto. Senta, ma può immaginare un futuro scontro tra cittadini azionisti e cittadini utenti? Sa, una delle cose che abbiamo detto agli investitori in giro è dire: noi siamo un'azienda sociale di mercato, non l'abbiamo nascosto. Quindi le due dovrebbero proprio coincidere. Dovrebbero coincidere, e attenzione agli investitori, che può esserci un rischio. La privatizzazione delle Poste britanniche è iniziata con una cessione di quote ai lavoratori. È uno scenario plausibile anche in Italia? No? Beh, il Tesoro ha fatto un'offerta dedicata ai dipendenti, che ha avuto un buon successo. Cioè, quindi vedremo o non vedremo i sindacati nel Consiglio di amministrazione delle Poste alla tedesca? Diciamo? Ma penso che ci siano delle fasi, non c'è nessun pregiudizio, ma non penso che ci sia un'evoluzione in questo senso. Ma c'è chi pensa che l'entrata dei dipendenti nel Consiglio di amministrazione è figlia, l'ipotesi dell'entrata dei dipendenti del Consiglio di amministrazione è figlia di un compromesso con la CISL, è così? No. Cioè? Guardi, noi abbiamo da subito detto che non siamo per la cogestione, siamo per un chiaro distinguo. L'azienda fa l'azienda, il sindacato fa il sindacato. Perché no cogestione? Perché contrario? Ma non è una contrarietà, è una necessità di ristabilire i ruoli, di una dialettica sana, indispensabile per il cambiamento. Ma in Germania, per esempio, c'è, funziona. Beh, è una co-governance che è diverso, cioè sì. È una capacità progettuale di andare a capire quali sono i grandi obiettivi di lungo periodo e poi nella gestione e nell'operatività. Vabbè, certo. Ognuno fa il suo mestiere. Senta, lei comunque dice che questo eventuale scambio lo può decidere solo l'azionista, cioè Padoan, è così, no? Certo. Ovviamente. Voi ne avete parlato? Oggi la focalizzazione è stata sulla privatizzazione. Quindi non avete mai parlato. E lei sarebbe d'accordo in quei termini in cui ha detto? Esatto, insomma. Esatto. Senta, ingegner Caio, al mondo, a parte le Poste giapponesi, non esiste nessun modello di business come il vostro. È un punto di forza o di debolezza? Secondo me è un punto di grande forza. Perché? Perché è la capacità di avere attività che riguardano elementi fondamentali per le famiglie sotto un unico marchio che ispira fiducia. Questa è un'enorme forza costruita negli anni, sicuramente non da me, ma dalle spalle larghe che ci portano, quella dei postini, degli sportellisti, delle sportelliste che negli anni hanno costruito un patrimonio di fiducia. Nel momento in cui lei ha fiducia intorno al servizio postale, allora va bene anche per i conti correnti, va bene anche per le assicurazioni, va bene per il risparmio. Siete un po' concorrenti con le banche. Certo. Le banche come la prendono? La prendono sul mercato. la prendono, va bene. Senta, a proposito di consiglio di amministrazione, il suo è stato recentemente rinnovato. Adesso è più equilibrato? Siamo molto contenti delle professionalità che sono entrati di recente, sì. Quindi si è equilibrato, insomma. Sì. Ecco, no, glielo chiedo perché so che i rapporti non erano facilissimi, soprattutto col presidente. Tutto superato? Ma secondo me dopo un iniziale assestamento, sì, direi proprio di sì. Cioè, comanda lei, punto. No. Il Consiglio è un organo delicato, importantissimo, centrale, e ognuno ha un suo ruolo preciso. Va bene. Senta, comunque le Poste portano fortuna. Stare alle Poste nel Consiglio di amministrazione porta fortuna, se è vero, come è vero, che un suo membro, Campo Dall'Orto, è diventato direttore generale della RAI. Secondo lei è una persona adatta per quel ruolo? Ma più che portare fortuna, attiriamo talenti, diciamola così, no? Attiriamo talenti. Gente siamo bravi ad attirare la gente brava che poi fa carriera. Ma la domanda era un'altra. È una persona adatta secondo lei? Sì, perché è un talento. Ma diciamo. Da noi ha dato un reale contributo. Quindi è una possibilità. Che qualità in particolare lei ha avuto modo di apprezzare nel consiglio di Campo Dall'Orto? Ma l'ascolto, lo studio, l'impegno e un giudizio molto equilibrato in passaggi anche difficili. Senta, insomma, ci saranno un sacco di postini nel futuro della fiction della RAI. Ma ci sono già stati. Ci saranno ancora. Senta, ingegner Caio, lei è famoso è famoso per la sua capacità di analisi, di decisione, ma anche per la rapidità con cui cambia mestiere, cambia idea, si stufa, non lo so. Sarà vero anche per le Poste? Beh, noi adesso abbiamo un bel progetto venduto da realizzare . Ed è un progetto che noi abbiamo da sempre identificato, un progetto a 5 anni, bisogna farlo. Quindi 5 anni non è... No, perché ho visto, leggendo la sua biografia, che lei va via in fretta, insomma. No, qui si resta. Qui si resta 5 anni, va bene. Senta, Renzi ha detto le Poste sono state per 60 anni il luogo della schifezza dei politici, sono parole sue. E la sensazione che ha avuto anche lei quando è arrivato alle Poste? No, guardi, io ho avuto la sensazione di un'azienda che doveva recuperare una sua consapevolezza di centralità del sistema con grande professionalità da rienergizzare. Ma che cosa l'ha colpito di più negativamente delle Poste? Il rischio di dimenticarsi del servizio postale. Cioè essere autoreferenziale? No, essere quasi troppo orientata all'attenzione all'aspetto finanziario, mentre invece la logistica secondo me è un mestiere bellissimo, la corrispondenza è essenziale. E poi lì è il rapporto con l'Italia, la logistica, no? Prevalente, diciamo. Beh, è uno dei rapporti con l'Italia, insieme alla frequentazione quotidiana del 1,5 milione di clienti che entrano nei nostri uffici postali. Uffici postali e portalette. Un milione e mezzo, no? Ah, sì, ogni giorno. E positivamente invece che cosa l'ha colpita? Questo. Il senso di appartenenza, il rapporto di territorio, le persone, anche l'affezione che i clienti e le comunità hanno verso Poste, un patrimonio bellissimo. Voi prevedete 8.000 assunzioni nei prossimi anni, ma in quanti anni? Nei prossimi 5 anni. Nei prossimi 5 anni 8.000 assunzioni? A tutti i livelli? A tutti i livelli. Novero oppure assunzioni? Novero e assunzioni, ma comunque orientate a quel cambiamento siamo noi, di cui parlava prima, perché cambiano le esigenze, cambiano dei clienti, devono cambiare anche le professionalità. Certo. Senta, ingegner Caio, e quanti esuberi negli stessi anni? Ma guardi, l'azienda da tempo gestisce un turnover agevolato, continueremo a farlo. Di quante persone? Non lo abbiamo detto, vedremo di anno in anno come funziona. Ah, cioè cambia, certo. Può cambiare. Ecco, ogni giorno in media 13.000 dipendenti su 143.000 non si presentano al lavoro con delle motivazioni le più diverse. Ecco, l'assenteismo è il problema numero uno per voi? Non è il problema numero uno, ma è un problema soprattutto nei confronti di tutte le altre decine di migliaia di persone che dedicamente vengono in ufficio o sono sulla strada indipendentemente dal tempo. C'è tantissima gente che lavora, bisogna che lavorino tutti. Poi ovviamente sui grandi numeri c'è anche la statistica dell'influenza, vorrei anche vedere. Senta, ma voi come lo affrontate? Avete una modalità particolare o no? No, la comunicazione, il senso di responsabilità. Ma l'ha sentita un po' più forte? Cioè un po' di lassismo l'ha sentita? No? Diciamo una abitudine soprattutto non dei dipendenti tutti, ma di chi fa il capo a ipotizzare che il mondo non si possa cambiare. Il mondo si deve cambiare. I manager di Air France, lei lo ricorderà, quando hanno annunciato la decisione di tagliare migliaia di posti di lavoro, sono stati quasi linciati. Potrebbe succedere anche in Italia, secondo lei? Non lo so, c'è sicuramente tensione sociale, non penso a quei livelli. No. Perché, secondo lei, no in Italia? Perché non l'ho avvisata, non l'ho avvertita, non la sento. Però in aprile, quando lei ha detto davanti ai dipendenti di Poste che il suo stipendio era di 1.200.000 euro, è scoppiato un putiferio. Ha avuto paura in quel momento? No. Nessuna paura? No, è un confronto durissimo, ma no, è la trasparenza. E oggi il suo rapporto con quelli che li ha identificati, immagino, quelli che li insultava, che rapporto è? Ma è un rapporto in evoluzione, è un rapporto pragmatico. Ma chi erano? Chi erano? Beh, erano i... No, ma ha identificato qualcuno? No. No. Senta, ma ci dovrebbe essere un rapporto ideale tra lo stipendio base di un lavoratore è quello dell'amministratore delegato? Beh, rispondo in termini più generali. C'è questo fattore di Gini che indica un po' la differenza di come si distribuisce la ricchezza nella società. È in aumento e non è un buon segnale. Bisogna ripensare questi meccanismi di distribuzione. Poi all'interno delle aziende, anche qui, il prezzo lo fa il mercato. Oggi noi siamo sul mercato ed è il mercato che stabilisce queste cose. Senta, qui Paolo le scrive: 2 ore di fila per una raccomandata. Cosa gli risponde a Paolo che ci scrive questo? Che lo sappiamo, che ci spiace, che ci stiamo lavorando molto intensamente perché sono tempi che vanno accorciati. Dico anche a Paolo che se si scarica l'app Ufficio Postale può prenotarsi il suo slot nell'ufficio più vicino se abita a Milano, Roma, Napoli o Palermo quest'anno e negli altri uffici gli anni prossimi. Paolo, soddisfatto. Senta, non mi ha detto quale sarebbe secondo lei il rapporto ideale. C'è una storia lunga da Olivetti in poi, 20, 30, 10. Il tema è, secondo me, un complesso un approccio più complessivo di ruoli e di responsabilità e dunque di stipendi. Oggi lo rifarebbe l'investimento in Alitalia? Sì, perché è stato fatto con una logica industriale. Noi siamo alla ricerca, nello sviluppo di grandi direttrici internazionali nel nostro servizio logistico e continuiamo a lavorare con Alitalia per costruirlo. Senta, ma cosa c'entrano però in realtà le poste con l'Alitalia? Servizi, pagamenti, carte, assicurazioni, viaggi. C'è un tant'è vero che l'Unione Europea ci ha detto qualche mese fa che non era un aiuto di Stato. Lei si ricorderà, certo, facemmo questa chiacchierata un anno fa circa, e io dissi che l'avremmo fatto se c'erano gli elementi per farlo. Lo abbiamo fatto con uno strumento che non è azioni ma un finanziamento, certo. E senza mettere soldi nella vecchia Alitalia ma solo nella nuova, e identificando chiaramente dei progetti che adesso stiamo governando. Sì. Senta, ma adesso avete comprato il 10% di Anima, per fare cosa? Intanto esattamente cos'è Anima? Anima è un gestore di risparmio. E per farne cosa? Per ampliare la nostra offerta in un momento in cui i tassi vanno a zero e gli strumenti tradizionali di risparmio non soddisfano più i consumatori, i clienti che vengono da noi, stiamo attrezzandoci per insegnare a loro e a noi come si muove un po' di più il risparmio verso il rischio, e Anima è molto utile in questo. È utile in quella direzione. Senta, ma quali sono le future diversificazioni di Poste? Poste fa sempre tre mestieri, logistica e corrispondenza, pagamenti e risparmio. Un tempo il pagamento era il bollettino, adesso è il bollettino PostePay, PostePay Evolution. Un tempo il risparmio era il libretto postale, oggi è il libretto postale, fondi, assicurazioni. Quindi sono i mestieri di affidamento e di fiducia. E quindi quella è la vostra siete già diversificati. Ma sì, è la nostra natura. Missione. Senta, la privatizzazione di Poste è un biglietto da visita per Renzi in Europa? Mi auguro di sì, io penso che lo sia. Perché? Perché è una privatizzazione fatta bene sui mercati internazionali, che ha rispettato tempi strettissimi, con un mercato azionario che ha confermato il prezzo di collocamento, nessuno strappo verso l'alto, nessuno strappo verso il basso, una bellissima operazione. Senta, il professor Carlo Carta, che è collaboratore della Voce.info, che è un ufficio studi vicino al governo, dice però che siete andati in borsa come un minestrone indistinto. Cosa gli risponde? Che siamo andati in borsa come un'infrastruttura integrata di servizi con un marchio forte e una base di clienti ampia e stabile. È una storia che è piaciuta moltissimo, una storia industriale chiarissima, con degli obiettivi industriali chiarissimi. Senta, dottor l'ingegner Caio, lei si è occupato, l'abbiamo detto nella presentazione, di banda larga prima delle Poste. Siamo sempre a zero lì? Siamo ancora un po' in affanno. Lei ha detto che le reti devono fare bene un mestiere solo, quello di portare i dati da A a B. In Italia però questo mestiere chi lo fa bene? Lo fanno bene un certo numero di operatori. Il tema è di capire come si mettono insieme questi operatori per far fare un salto vero alla infrastruttura di base. Bisogna fare un'infrastruttura unica. Insomma, secondo me bisogna mettere insieme gli operatori e fare un'infrastruttura unica. Lei dice che nel digitale si possono creare 250.000 posti di lavoro. Come? Ma ci sono mestieri che 3 anni fa neanche c'erano. La Unione Europea ha recentemente confermato questi numeri. Innovazione. Ecco, ma innovazione fanno 250.000 posti nuovi, e quanti se ne perdono? Se ne perdono, ma se non si fa innovazione si finisce solo col perdere quelli vecchi senza fare quelli nuovi. Quindi è meglio farli. Senta, lei sceglie continuamente i collaboratori. Si fida di più dei cacciatori di testa o del suo fiuto? A volte né dell'uno né dell'altro. Sempre di più triangolo quello che vedo delle persone che si presentano con le loro esperienze passate e con chi le ha conosciute davvero. E cosa cerca di più in una persona che deve scegliere? La voglia di mettersi in gioco, la voglia di far parte di una squadra, la voglia con entusiasmo di supportare obiettivi sfidanti. Senta, Senta, ingegner Caio, Gianfilippo Cuneo sul Corriere della Sera critica a fondo la quotazione di Poste. Dice testualmente: il buyout può fruttare molto più del listino. Lei però non gli ha risposto. Perché? Perché il buyout è come spremere il limone. È vero quello che dice Cuneo, però se vogliamo spremere Poste si fa il buyout, se vuole far crescere un'infrastruttura nazionale non si fa il buyout. Cuneo però dice in soldoni, dice che lo Stato poteva incassare 40 miliardi, non 8, 6, quelli che sono, tenendosi il 100% delle azioni. Se è vero, però, allora sempre spremendolo. Per forza, si caricano i debiti dell'azienda, si porta via la cassa e poi i 40 miliardi restano in tasca a un azionista e l'azienda rischia di andare a patasso. Dov'è che è andata a finire così? Ma pagine gialle, se non mi ricordo male. Senta, il suo azionista, Padoan, ha cambiato idea sulla soglia dei 3.000 euro. Quindi lei non la paga cambia invece sul buyout? No. E 3.000 euro le sembrano giusti o sbagliati? Ma guardi, dipende un po' da come funziona l'economia. Gli italiani hanno molto risparmio e si sta cercando di trovare tutti i sistemi per farglielo mettere in circolazione. Se questo va in questa direzione può essere utile. Senta, a proposito, le piace la soglia? No, è giusta la web tax secondo lei? Guardi, è giusto porsi a livello europeo nei confronti di queste grandi multinazionali per assicurare che le aziende che sono loro concorrenti abbiano lo stesso livello di regolazione, inclusa la tassa. Quindi un qualche ragionamento va fatto. Cioè è necessario che ci sia un'armonizzazione fiscale? Diciamo. Un'armonizzazione fiscale? Perché non è possibile che... Manca un'armonizzazione regolatoria. Lei immagini tutto il tema della privacy. Per aprire un conto corrente si vengono 15 moduli. Se io apro un conto con uno di questi gestori over the top, con due clic la faccio. Bisogna mettere a parte. Ma lei la vede all'orizzonte questa possibilità di trovare questo accordo, oppure gli interessi sono tali per cui non sarà fatto? Io penso che sia uno straordinario terreno di sfida e opportunità per l'Europa. Anche di civiltà. Di civiltà. È un progetto vero per l'Europa. Assolutamente. Questo. Senta, ingegner Caio, le faccio un'ultima domanda. Ma nello scontro tra Rossi e Marquez... Lei con chi sta? Con Rossi, anytime, tutto il tempo. Tutto il tempo, è stata ingiusta la punizione. Assolutamente. Sì, perché? Perché Rossi deve vincere. Ah, vabbè, grazie. 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Tantissimi sms, questo mi colpisce molto. Fabio dice: buongiorno, ma perché continuano a consegnare le raccomandate al mattino che non c'è nessuno a casa, poi bisogna andare a ritirarle alla posta? Giusto. Peccato che è andato via Caio, perché mi sembra una domanda interessante. Libretti per bambini, dice un altro, le poste sono i migliori nel mercato, ma per aprirne uno che fatica, nessuno sapeva niente, più si scocciano. Beh, insomma, la visione di Caio era ottimistica, però la realtà di tutti i giorni è più complicata. Che titolo faresti, Mario, per l'intervista, per il faccia a faccia? Bella intervista, uomo solido, e dunque il titolo è Caio non suona due volte. Caio non suona due volte. E tu, Pietrangelo? Niente posti alle poste, solo titoli. Però poi posso dire una cosa: se sono così bravi alle poste, me lo possono fare un favore? Possono aggiustare loro l'autostrada Palermo-Catania? Tanto fanno un po' di tutto, ce l'ha spiegato, sì. Caio, no? Certo. Ci sono multiservice. Sì. Multiservice. Con una cazzuola in mano ce lo vedo. Palermo-Catania qualcuno deve pur farlo, no? Lastricano di lettere. Esattamente. Senti. Vabbè, però gli è andata bene, dai, la quotazione. Sono stati bravi. Abbastanza bene. Come la Ferrari, giusto? Giacalò. No, la Ferrari è andata meglio. Giacalò. Sì, no, vabbè, è calata adesso, però sai, la borsa ogni giorno è una sua storia. Giacalò. Giacalò che è un arabismo. Non era bispo. Mi mandi la canzone. Stamattina, per favore, la regia. Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu. Sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va un altro Gregus. Accendiamo un film porno. Già ti vedo vestita di rosa, ti comprerò casa. Sei tu la mia sposa, ma scendi più giù. Vieni a darmi. Allora oggi? E ho oggi è il non volerne sapere del perché il cuore batte forte, vedere e non, volere vederla, non volerla vedere, cercarla, amarla da subito nel trucco già sbiadito di un buongiorno, con la festa finita che torna alla vita, ecco, per chiamarla un giorno o mai più. E è stato Cirano a dirmi di metterla questa canzone e di dedicarla, non mi ha detto a chi, però ha voluto un messaggio, che è questo. Buongiorno, Cesare Cremonini. Somiglia mio padre, il tuo nome qual è? Porto nel bosco, giuro non sono ubriaco, se vito non bevo, domani lavoro. Chi te l'ha suggerita? Cirano. Cirano, guarda, no, tu, ma Cesare, tu Cremonini, non lo metti. Ma infatti me l'ha detto Cirano, tua figlio. E non si chiama Cirano. Comunque continuano a scrivere qua, ecco. Che dico, sulle poste, sulle dai, poste, dai, insomma, dai. un po' di lamentele ci sono, eh? Te, 35 te km per ritirare un pacco non consegnato, vero, per assenza, vero, cioè, vero. Più vicino ufficio postale a un chilometro. È dura, insomma, è difficile. Sono Pier Filiale, via Montebello Torino Vecchia, aspettate. Posso dire, le poste funzionano solo quando c'è un servizio di portineria. Poi certo, sì, per c'è la milioni di italiani senza servizio di portineria è una disperazione. Sì, è un tempo le case avevano i portinari. È costruita ancora sulla struttura delle case con la portineria. Le case con la portineria, era un'Italia molto civile anche. Era Dana Rosa, si potevano pagare. Ma era anche civile, cioè, era un altro film. Mario, la tua bolla cattiva. La saga. Cattiva, non esageriamo. Dai. Bella questa musica di Bill Conti, vinse insomma tanti premi e d'altronde ispira moltissimo, è come una vecchia moto Guzzi questa musica qua. Tu hai avuto la moto Guzzi? No, la Guzzi no. Ce l'ho avuta, no. Peccato. Io avevo la Vespa. Beh, insomma, però un grande marchio italiano. Dunque, sì. No, senti, dobbiamo occuparci di Marino, quindi io devo introdurre di Marino. Nuova idea. Purtroppo la cronaca incombe e devo introdurre. Sei veramente attento all'attualità, Mario. Sì. Molto. Senti il carattere di Marino. Ma tu capi? Resta. È come. Allora, deciso che resta. Pare che questo scrivono oggi i giornali. Ed è come un bambino attaccato al ciuccio, al biberon, al girello, al box. È cresciuto, ma non si rende conto che questo suo crescere dovrebbe portarlo a lasciare questi trastulli. E Roma, signori, Roma non è un trastullo, cioè a Roma non si può fare così. Roma è la capitale. Allora, stamattina leggevo che addirittura programmava un blitz in aeroporto per incontrare Renzi. Ma se il Presidente del Consiglio non ti vuole incontrare, tu non fai il blitz. Perché no? È un nuovo modo di fare politica. Ecco. Non mi vuole parlare, io gli voglio parlare. Ho delle cose da dirgli e faccio il blitz in aeroporto. Diciamoci la verità. Io lo trovo una bella idea. PD ha perso un sacco di tempo. Tantissimo. E questa è la dimostrazione che lui doveva essere sfiduciato prima. Io su Vabbè, questo però credo. Senti Mario, questa cosa qui la diciamo da mesi. Appunto. Nessuno l'ha fatto, non è capitato. Ma noi ha lo diciamo lui affinché per adesso, scusami, ha vinto lui e quindi ha vinto questo? Ti posso dire, non ci posso credere. Potrebbe. Non ci posso credere. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Massimo Moretti della società Wasp, creatore di una stampante in 3D, una stampante alta 12 metri, in grado di ricostruire quello che i terroristi dell'ISIS stanno cercando di cancellare dalla faccia della terra. Davvero si può dire così? Adesso così è sicuramente adatto a quello di cui si parla in questo momento, però in realtà è una macchina che stampa, deposita materiale e può ricostruire ciò che è diventato, che può essere digitalizzato. Quindi vale anche per quello che hanno distrutto i terroristi dell'ISIS? Può valere anche per quello. Come funziona questa stampante? Praticamente stampare significa depositare materiale in maniera controllata seguendo delle coordinate che vengono date da un computer, quindi ci sono dei processi di trasformazione delle foto in 3D, dopodiché si depositano materiali. Il grosso vantaggio dato da questo approccio è che si possono fare degli impasti di materiali anche del posto, quindi si possono, quindi si possono usare i detriti rimasti, insomma i materiali che sono rimasti dalla distruzione di questi monumenti, per esempio? Sì, una cosa del genere la stiamo, ci hanno chiesto di farla anche nel terremoto in Nepal, quindi le applicazioni sono trasversali. Ah, cioè in Nepal state già facendo una cosa di questo genere? Ma in Nepal c'è il problema dei trasporti, si fa fatica a arrivare nei posti, ci sono 10 ore per fare 100 chilometri, quindi avere una macchina che raccoglie i detriti tritati, ridà forma. Vabbè, è un problema di tempo, ma non di possibilità. C'è la possibilità. Assolutamente sì. E quindi voi potete rifare, no, perché questo agli ascoltatori interessa molto, voi potete rifare i monumenti. Noi possiamo rifare anche i monumenti. E sì. Quindi il progetto per ricostruire in scala reale qualcuno di questi antichi manufatti distrutti in Siria e in Iraq potrebbe essere attuato. Cioè a dicembre voi presenterete due prototipi, ho capito bene? Sì. Diciamo, su cosa? Non sarà potrebbe, ma dovrà, perché ormai abbiamo detto che lo facciamo, quindi siamo abituati a rispettare gli impegni presi, però chiaramente si incontreranno dei problemi che andranno risolti e ma che prototipi volete presentare? Ma qui noi siamo un'azienda che noi ci mettiamo al servizio degli esperti. Ma ne avrete già parlato dei prototipi da... Sì. Senta, ma in questo modo si può dire che la memoria non potrà non essere mai più distrutta. E questa è veramente una frase che è universale. Quando noi abbiamo trasformato in digitale i dati, quando abbiamo la tecnologia per dar forma a quei dati, la memoria non può essere distrutta e la cultura, se uno lo vuole rinnegare la sua, magari la possiamo trapiantare da mirare altrove. Da noi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS Salamino. Senza musica. A volte i muri tornano. Il 22 novembre del 1989 Gianfranco Fini, all'epoca leader del Movimento Sociale, andò a Gorizia per demolire il muro. Era sulla piazza della Transalpina e divideva da un lato l'Italia, cioè l'Occidente, dall'altro lato la Jugoslavia e quindi il comunismo. Ma i muri tornano. Un secolo dopo la fine della guerra, la Grande Guerra, torna anche la trincea. Ho letto sul Manifesto un articolo di Ernesto Milanesi e scopro un fatto che stenta ad arrivare alla ribalta dell'opinione pubblica. I rifugiati, i migranti, gli scappati non trovano dentro i confini della patria baciata dai fanti del Carso né i diritti né l'accoglienza. Sono costretti a bivaccare lungo il fiume Isonzo. E a questo punto io aggiungo la mia firma al reportage di un valido cronista come Milanesi, perché ognuno rifletta. Quella della sosta friulana è un passaggio fondamentale per i migranti nel loro viaggio verso l'Europa e l'accampamento è sull'Isonzo. L'assessore provinciale Ilaria Cecot ha raccontato a Milanesi tu questo e dice: ho ancora nelle orecchie il rumore del fiume arrabbiato e il silenzio delle istituzioni. La scena è questa. In tre ad arrivare presso l'accampamento con l'assessore Cecot c'è il regista Andrea Segre e un carabiniere. E ancora la Cecot che parla. Se si fosse trattato di salvare bestie, probabilmente sarebbero arrivati gli elicotteri. Insomma, a Gorizia è tornato il muro. Provate a immaginare adesso, ascoltatori, se fosse successo a Lampedusa. E il muro, dunque, c'è a Gorizia. Ettore Romoli, il sindaco, è di Forza Italia e vabbè, alza il muro, fa la sua propaganda. Ma Deborah Serracchiani, che è la vice di Renzi, che è il governatore della regione, pur sollecitata dai sacerdoti friulani, non ha detto nulla e soltanto le donne si sono mobilitate, le volontarie di Gorizia. Ecco, volevo dire questo perché i muri tornano e ancora una volta la trincea porta il fango. Ha scritto Susanna, è stata abbastanza spiritosa, oltre a augurarci buona giornata ci dice: ma perché non mettiamo Marino e Marquez nello stesso box e vediamo come va a finire. Mi è sembrata una buona idea. Bolla Mariano. Sì. Vediamo di dare un po' di ritmo a questa giornata che è già cominciata quando ancora il sole non era arrivato stamattina. Allora, questi sono i Bon Jovi, sentiamoli ancora, vai. Living in a Prayer. Mamma mia, che batteria. Allora, sì, attenti signori, perché si sveglia Obama e quindi arriva il settimo cavalleggeri. E arriva perché gli Stati Uniti pare che si siano finalmente, forse, pare, sembra, ripeto, svegliati nella guerra contro ISIS, almeno in Iraq. In Siria ci sta pensando Putin. E, il nuovo capo delle forze armate, Joseph Dunford, ha appena detto ieri che bombarderanno raffinerie e pozzi di petrolio. Questo significa che cambia la strategia. Finora questo non era stato fatto. Vabbè, entrano in guerra. Va. Entrano, diciamo, dai. Sì, entrano in guerra in maniera massiccia, stanno pensando anche all'uso di fanteria, c'erano delle indiscrezioni ieri sera su questo, e soprattutto si tenta di fare una cosa intelligente finalmente, e cioè che è quella di tagliare una delle fonti di approvvigionamento finanziario del gruppo terroristico, e quindi ISIS potrebbe forse arretrare. Comunque si capisce una cosa, Giovanni, è una campagna difficilissima. Se non si mettono d'accordo con l'Iran, con tutte le altre potenze, e con la Russia, certo, e con la Russia ovviamente, 800024 numero verde, 349-238-6666 l'SMS. L'unico modo per fare una rivoluzione è ristrutturare l'università, impossessandosene in nome degli studenti e in nome del popolo. Noi non vogliamo distruggere, noi vogliamo soltanto che quello che è nostro diventi nostro per sempre. Questo film, Fragole e Sangue, questa canzone di John Lennon hanno fatto conoscere al mondo la protesta contro la guerra in Vietnam nelle università. Fu un momento di rottura grande nella società americana, tu eri lì testimone. Sì, è stato un momento di rottura perché ha spezzato non il legame fra giovani e adulti, ma un legame all'interno della classe dirigente americana. Io ricordo un'iniziativa che era stata presa da molti gruppi di studenti in tutto il paese, negli Stati Uniti, ed era quella di invitare tutti coloro che andavano al lavoro la mattina in automobile a tenere i fari accesi se erano contrari, quindi gli adulti, quindi i padri, alla guerra nel Vietnam. E il risultato quale fu? Il risultato è stato che improvvisamente, prima della messa in onda dei telegiornali, si vedevano queste autostrade completamente illuminate. E quindi si capiva che erano... Si capiva che i padri stavano coi figli. Quindi i media hanno avuto un'enorme importanza nella diffusione della protesta. Hanno avuto un'importanza essenziale. Se si pensa che poco dopo il tempo di cui stiamo parlando, il giornalista Dan Rather, che diventerà poi il conduttore della CBS, viene abbattuto dalla polizia di Chicago perché non filmasse i momenti di emozionante controversia che stava spaccando il Partito Democratico, ecco, si ha l'idea della grandiosità della frattura all'interno della classe dirigente americana. Fu una completa mistificazione della realtà. Alla fine la fecero passare come una vittoria. Chi diavolo saprà mai ciò che è davvero successo laggiù? Se questo è il modo in cui la storia viene raccontata. Quei due giorni d'ottobre, una grande inchiesta a poche ore di distanza. Nel 1967 il massacro di un battaglione di ventenni in Vietnam e l'inizio delle proteste all'università di Madison nel Wisconsin. I testimoni, la memoria, le verità nascoste qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24. Ornella ancora sulle poste, molto simpatica, comica involontaria, ci dice: io sono contenta delle poste, ma devo dire che sono fortunato, ho quattro uffici vicino a casa. L'unico difetto è che mi portano solo cose da pagare. Non è colpa loro. Questo mi sa che è un po' comune a tutti. Bolla. Sì. Io non creo niente, io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spirito. Allora, Gordon dice, lui fa le regole, noi facciamo le notizie, allora Giovanni, ne raccontiamo qualcuna. Bellissima questa, rivela la forza di Volkswagen come gruppo, parliamoci chiaro, perché la borsa li sta premiando, hanno appena comunicato i dati, perderanno nell'ultimo trimestre 1.67 miliardi, l'anno scorso guadagnavano 2.9 miliardi, parlo di profitto netto, sì. E non nonostante questo la borsa va bene e le aspettative alla fine di margine sia per quest'anno che per l'anno prossimo sono positive. Ciò significa che insomma prima di abbatterlo ci vorrà bolla. Molto. Era una ci bolla, vorrà molto. Quasi, una, quasi bolla. Una bolla. E adesso col professor Roberto Berrabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top di tutto il mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA, 1 settembre 2015. Quali trattamenti sono efficaci per la sinusite cronica? Professore, sinusite cronica? Sì, è una di quelle cose apparentemente modeste e non certamente letali, ma che affettano la qualità della vita e che danno un gran disturbo perché, come sapete, è questa dolore in faccia, il naso chiuso, muco che viene secreto e soprattutto un fastidio che è un fastidio cronico che ti prende di giorno, di notte e quindi una qualità della vita. E come si combatte? Ma dunque, quello che è stato visto che è una cosa abbastanza semplice, cioè un'irrigazione di acqua e sale nel naso e un po' di cortisone sempre dentro il naso è efficace. Questo è stato visto con, se volete, una tempistica modesta, perché 1-3 settimane di cortisone e di acqua e sale. E di acqua e sale riescono a dare un beneficio che è un beneficio che dura nel tempo e soprattutto vuol dire che tutto quello che viene spesso utilizzato, gli antistaminici, l'immunoterapia, gli antifungini topici, gli antibiotici messi dentro il naso, tutta questa roba non fa nulla. Dovete, se volete, un po' il vecchio rimedio della nonna, no, acqua e sale, con l'aggiunta invece di un rimedio che è quello validato nel tempo del cortisone, che aiuta sempre se utilizzato per momenti limitati, perché come sapete il cortisone ha poco lungo cortisone andare. E tanta acqua e sale. Mi convince. Ah, per finire, Amor mio di Mina. Tu, amor mio, chi ti ha amato in questo mondo? Solo io. Io invece troppo amata, ma noi due, amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più.